detto questo che si chiama Rian, che ha 50 anni, poverino, e c'ha una bellissima casa, una di quelle tutta in legno in Inghilterra, c'ha anche una bella bambina, però lui ha scritto che praticamente non ha perduto il lavoro, ha perduto anche la patente perché le è venuta una brutta malattia, l'encefalite. E adesso sta cercando piano piano di riprendersi, anche se è una cosa molto dura. E c'è una stazione veramente molto bella. Ed era su, in 10 metri, però avendo l'indicativo è stato facile sapere un po' tutto di lui, capito? Sì, beh certo, ma una volta diciamo che anche il 27 si usava, o il codice Q si usava, e bene o male capivi, o perlomeno intuivi quello che si diceva, ma poi col passare degli anni il codice Q non l'ha utilizzato più nessuno, per cui cosa fai? Anche fra di noi prima lo usavamo il codice Q, ma adesso chi usa più, chi ne ha più usato? Perché tutto questo? Perché quando entravano i nuovi, entravano senza conoscerlo il codice Q, e allora si parlava come parlare al telefono, e abbiamo continuato così. Praticamente abbiamo perso anche quella occasione lì, tra virgolette. E cosa ci vuoi fare? Pazienza. Vediamo se rientra Gianni. Gianni? Non c'è, dai. Luca, ci sei? Niente da fare. Claudio al telefono, vabbè. Ci riprende quando avrà finito. Riprende Gianfra. Sì. E poi, comunque, a prescindere da tutto, almeno il codice Q, per chi opera la radio, a prescindere da dove opera, lo dovrebbe sapere, perché ti chiede di fare lo spilling e tu non lo sai, cosa dici? Sono a Sassari come Salerno, Ancona, uno può fare il telefono, ma se lo fai in un collegamento non dici più, quello non capisce un tubo, magari capisce che sia Salerno, Ancona, cioè tutto al di fuori di che sia Sassari, quindi è un macello. Invece dici Sierra Alfa del Pio Sierra, Alfa Romeo Italia, è tutto più facile, ecco. Break. Registrato il break. Sì, ma appunto, no, ma addirittura si usava ripetendo due volte, come per dire, non so, Sassari come Sierra, Alfa, Sierra, e così, no? E dunque, provava magari con la penna, scriveva le lettere e poi leggeva e capiva quello che si diceva. Tutto lì, oggi invece no, non si usa più. E questo voleva anche per il nominativo, per il nome di battesimo, per tutto, insomma, ecco. Magari il collegamento diventava un po' lungo, anzi anche monotono probabilmente, con tutte queste ripetizioni che si facevano delle sillabe, per cui, vabbè, comunque è andata così, pazienza. Avanti break. Ciao Giulio, Gavino da Sassari, via Napoli, zona Napoli. Un controllo, Giulio. Certo, Gavì, Santiago 9, modulati, la radio è buona, però il microfono non male. Santiago 9, il segnale, radio 5, però ho un microfono normalissimo. Sì, il microfono è normale, sto trasmettendo con un Intake FM500S, non so se lo conosci, 34 canali, lo sto sistemando. Ok, va bene, va benissimo. L'ho avuto anch'io col baracchino, poi ci avevo fatto un ponte spostando un filo nella quartiera, cioè nel commutatore dei canali, e da 34 erano diventati 52 canali, perché avevo ottenuto più canali di sotto, perché lì sono 34 canali, 23, 24 mi sembra sono normali, poi gli altri sono canali di sotto, altri 8, una cosa del genere, 7, 8. E facendo questo ponticello nel commutatore dei canali, se ricordo bene era un filo rosso che l'avevo spostato di posizione, perché l'avevo letto, questa modifica l'avevo letta in una rivista di CQ elettronica che io allora compravo sempre, che ormai non ho più comprato nessuna rivista. Avevo fatto questo spostamento di questo filo, avevo fatto utilizzando poi il tassino ANL e avevo ottenuto 52 canali anziché 34. Riprende ancora Ravi, c'è con noi Gianfranco dall'altra parte del filo, avanti Ravi. Ok, questo apparecchio c'è la stessa microfono, infatti sto provando questo microfono che ho, adesso ne provo un altro, tutt'a più mi fai un altro controllo. Un saluto all'amico, comunque. Ok, d'accordo, Gavi, siamo qua, non c'è problema, fai pure tutta l'operazione che devi fare e poi chiama che già siamo qua. Avanti Gianfranco. Sì, buonasera Gavino, il tuo segnale qua è 9.5. La radio è 5, molto buona, non forte ma molto buona comunque. L'FM 500 adesso l'ho fatto anch'io, mi ricordo, e infatti era facilmente modificabile. Ok, vediamo se è entrato qualcun altro, mi è sembrato che ci fosse anche qualcun altro. C'è qualcuno che vuole entrare su questo canale, avanti? Sono sempre io, Giulio, guarda con quest'altro microfono, vedi un po' come va, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ciao Gianfranco. Ok Gianfranco, cioè ok capì, sì va bene anche questo, però l'altro era più pastoso, era più bello, questo ha un pochino più toni acuti, adesso vediamo un po', ti faccio dare la conferma da se anche da lui è così, da Gianfranco, vai Gianfranco, capì, no? Sì, confermo, è più cupo rispetto all'altro, l'altro è migliore. Questo è un Midland come microfono, vecchio stampo sempre. Sì, ma l'altro era migliore, ecco, era più bella come tale. Copiato davvero, l'altro microfono era migliore come modulazione, più bella. Guarda questo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sempre Midland è questo, No, no, sempre a me piace sempre la prima radio che mi hai fatto sentire, anche questa non è male, sia ben chiaro, non è male, però l'altra era sempre più bella, secondo i miei gusti, poi ognuno ha le sue preferenze. Avanti Gianfra. Sì, qua mi sembra un pochettino meno occupato rispetto a quello di prima, quindi sai, su quei baracchini basta spostarti, allontanare un po' la voce dal microfono e a volte ci sono anche delle differenze abbastanza consistenti. Ora com'è? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Una volta che stacco ci provo l'altro, dai, quello che avevo premesso la prima volta, va bene? Ok, d'accordo, adesso però sei arrivato meglio, forse ti hai avvicinato al microfono alla bocca, non lo so, adesso rispetto al passaggio precedente, come radio questa era un migliore, dai, forse ti sei avvicinato con la bocca al microfono, va bene, dai, prova ancora, Gavi, dai, prova ancora, ancora una volta. Sì, mi sono avvicinato alla bocca, sicuramente sì, magari va meglio così, no? Sì, da vicino sì, da vicino sì, ebbene, non essendo predicato il microfono, chiaramente a 10 cm dalla bocca è più che ottimale, dai. Bene, bene, se hai bisogno di altri controlli siamo qua. Avanti Gianfra. Sì, ok. Questo è l'altro microfono, quello di prima, va meglio, no? Decisamente, per me sì, decisamente meglio, vero Gianfra? Sì, questo è anche un po', mi è sembrato un pochettino più forte anche, come radio. Questo è un Astral come microfono, completamente diverso dal Midland, e sicuramente va meglio questo, dai, le consiglio questo allora. Grazie Giulio per adesso, poi ci sentiamo ogni tanto, io sono sempre più o meno ogni tanto lo accendo, dai, sono in ascolto. Mi fa piacere averti sentito e un saluto anche all'amico Gianfranco. ti ringrazio tanto, ciao. Ok, Ravi, figurati, anche a me mi ha fatto piacere di ascoltarti, dai, quando vuoi, che hai necessità, se stai lavorando e che devi fare qualche controllo, chiama pure, non c'è problema, io ben volentieri, quando sono in ruota ti posso dare il controllo, non c'è problema, e suppongo che anche gli altri amici siano disponibili a darti il controllo. Va bene, Ravi, fate sentire comunque, dai. Ci manchi, dai, diciamo che ci manchi dalla frequenza. Avanti, Gianfra. Sì, ciao Gavino, buona serata e buon lavoro. E niente, vediamo un po' se è rientrato qualcuno, Gianni, Claudio. Si vede che non sono disponibili al momento per poter dialogare con noi. Sì, Gavino è una persona che lavora, fa questo lavoro praticamente, per cui ha anche necessità, e io sono ben contento di, e ben disponibile a dargli controlli quando è necessario, quando le servono, insomma. Però se lui entrasse anche a fare questo con noi sarei ancora più contento, perché come ho detto poc'anzi, Gavino dalla frequenza ci manca, a me mi manca. Avanti Gianfra. Più si è meglio è a volte, oppure si potrebbe anche dire meglio pochi che mal accompagnati, come diceva lui, dipende dalle circostanze, perché l'importante è che ci siano sempre persone con cui poter parlare. Giulio, come dai, come mi senti? Perché come al solito sto andando e scendendo come potenza, quindi considerando che tu sei anche in una zona non molto favorevole, non è troppo bassa, no? No, io ti sto ascoltando abbastanza bene, Gianfra, è anche abbastanza chiara, la modulazione è anche abbastanza chiara, a differenza magari di qualche volta che era più forte, però era più barattolosa. No, è abbastanza chiara, io ti sento bene. Il segnale non è molto, ma sicuramente stai andando con un watt, come tu solito fare, per cui si sa, segnale quello che è. Santiago 8 appena, Gianfra, vai. S8, sono contento, S8, sì, un watt addirittura modulato, molto bene. Mi viene da ridere, però ho considerato l'antenna, un'antenna veramente, Giulio mi sta dando delle grandissime soddisfazioni, devo dire, nonostante non sia in alluminio, non sia qua, non sia là, ma è formidabile, anche dal punto di vista dei disturbi, del rumore, io metto lo squelcher, però non c'è proprio, si tappa tutto quanto, sembra di essere su un'altra frequenza. Molto soddisfatto comunque. Sì, beh certo, l'antenna va bene, io ripeto, anch'io quella, per cui, e poi quello che mi interessava a me era soprattutto l'ingombro inteso come radiali, non ce ne sono in questa antenna, per cui non fischiano la notte, perché la notte quando c'è vento forte, per carità, era un tormento, non era possibile, tanto più che io allora l'antenna ce l'avevo messa dall'altra parte della casa, no? Dalla parte di dietro, anziché adesso è la parte di davanti, ed era più in alto, era sicuramente molto più favorevole come segnale, come, e anche come ricezione, perché era almeno 5-6 metri più in alto di come adesso. Però era un tormento la notte quando c'era vento, per carità, e l'ho tolta. Tieni presente che l'antenna mia da Mantova Tubo è nuova, l'ho tolta e l'ho messa da parte e basta. E allora avevo costruito una Game Master per tutti, poi là un canale a pesca avevo copiato dalla Game Master e l'avevo costruita, l'ho tenuta per due anni e mezzo questa canale a pesca autocostruita. Poi, siccome ce l'avevo già la Game Master, però non l'avevo mai montata, l'avevo comprata usata, però era nuova perché si era rotta e l'amico si era disfatto. L'ho presa io, ce l'avevo sempre da una parte a casa. È venuto un giorno un mio nipote e gliel'ho data, se l'ho portata via a Carbonia. A quel punto lì, dopo un bel po' di tempo, dopo 2 anni e mezzo, gliel'ho chiesta: ma l'avevi messa l'antenna? No, non l'ho mai piazzata. Ascolta, perché non me la riporti? Sì, che te la riporti, cosa mi regali? Come ho fatto altre volte, quasi tanto non te l'ho mai regalato le cose, no? E baracchini, e microfoni, e balevari. E così me l'ha riportata. E adesso ce l'ho originale nel senso della parola. Ed era un'antenna che si era spezzata, è stata rimessa a posto, perché prima era al mare, cioè era piazzata in una località di mare e si era spezzata. Adesso l'ho messa a posto e non succede più niente, perché l'ho rinforzata, eccetera, eccetera. Però va benissimo, ho fatto tanti collegamenti, già fra, proprio alla grande, riprendi. Giulio, per curiosità, confermami questa cosa, tu se in quel punto dovresti fare un cerchio, diciamo di 100 metri, ecco, intorno alla tua posizione, mi confermi che sei molto vicino alla chiesa? Sì, beh certo, diciamo che lì nell'aria della chiesa cosa possono essere? 150 metri in linea d'aria più o meno, massimo 200 metri. Praticamente la chiesa, ce l'hai presente? Ecco, di fronte alla chiesa c'è a sinistra una strada che sale a sinistra e subito a destra, io sono lì, praticamente è la strada parallela alla via della chiesa dove sono io. Sì, esatto, è la stessa distanza che c'è anche vediamo se ricordo, c'è anche il supermercato. Sì, allora nella via della chiesa stessa un anno fa avevano fatto un nuovo supermercato, si chiama MD, si chiama, e io in linea d'aria dal supermercato sono più o meno alla stessa altezza, però nella strada parallela. In linea d'aria cosa possono essere? 100 metri dal supermercato. Solo che se mi affaccio alla finestra non lo vedo il supermercato, perché? Perché c'è una fila di case davanti. Però mi sposto di 50 metri, svolto a destra e già vedo il supermercato, perché c'è una strada che mi porta lì. Sì, no, era solo per fare una prova di rilevamento. Quindi corrisponde, dai, a grande linea corrisponde. E niente. Vediamo se è rientrato qualcuno. Gianni, Claudio, Cucù. Ok, poi non so se tu sai dov'è la scuola guida, come si chiama quella folgua, sai che non mi ricordo, sai dov'è la scuola guida? E io sono di fronte. Sì. No, ma mi interessa solo se corrispondevano ai dati. Sì, e beh certo. Cos'hai, qualche strumento che ti segna anche la cartina di posizione nelle varie stazioni? Diciamo che c'è tanta roba qua, non è una stazione classica, è una stazione che vedrebbe qualcuno su generis, quindi un po' al di fuori dagli schemi. Ho capito, sì. Vabbè. Vedo così. No, io ho un semplice baracchino adesso, anzi a dire la verità, in questo momento ne ho 3, tutti gli altri li ho tutti dati. E conto di dare anche questi, tanto non me ne faccio niente. E non me ne faccio niente. Per cui vado avanti così. Tanto non ho altre ambizioni. Anzi diciamo che ormai sono invecchiato, per cui non mi interessa più come una volta. Sì, ci parlo perché tanto sono a casa, 4 chiacchiere mi fa piacere farle con voi, con te e con gli altri, ma ormai quella passione essere selvaggia di una volta, per così dire, no, non ce l'ho più, non ce l'ho più, perché non c'è tanto di essere così appassionato come prima, ecco. Avanti Gianfra. Sì, però questo è un problema che c'è qua, capito? È un problema che c'è qua perché qua è così. Non ho capito perché. Ma ad esempio se tu guardi la Germania e gli altri paesi che ci hanno intorno, il Belgio, eccetera, la 27 c'è ancora molta gente. In Italia siamo strani oramai, anche perché tutti i ragazzini sono colpiti smartphone proprio, ne hanno due, tre in tasca, in testa, e quindi è ovvio che la cosa è un po' sciamata, hanno altri interessi, e quindi dalla radio non è a niente, sono da povere. Quindi, boh. Però, diciamo, come ho detto, si possono avere anche adesso delle grandi soddisfazioni. Ci si può divertire, perché alla fine, il discorso è quello. Ci dobbiamo divertire, perché adesso che siamo intrappolati, quindi può essere un bel attento, perché poi la televisione alla fine ti stanca anche. Avanti Marco, tu sì? Vabbè, non ti prendi. Sì, beh, lo so, Gioca, ma uno è essere giovane, l'altro è avere 78 anni come me, è diverso il discorso, per cui uno quando è giovane, anch'io 49 anni fa, guarda che ci sono 49 anni, io per questo mi non un giorno, dal 1972, febbraio 1972, quasi 49 anni a febbraio, tanto per dirtene una. Perciò dopo tantissimi anni la passione è bella, tutto quello che vuoi, però prima o poi un pochino deve rallentare, no? O perlomeno è la vita stessa che ti fa rallentare, niente di più. No, mi piace sempre, sia ben chiaro. Anzi, mi sarebbe piaciuto se si fosse incrementato il numero di CB anche, invece no, tutti spariti. Poi sempre meno, parlano sempre, anche quelle persone che ci sono adesso parlano sempre meno, 10 minuti, poi un quarto d'ora, poi spariscono. E non li senti, magari li senti di nuovo in domani, però prima si facevano queste ore, con tutte le salse di questo mondo, donne comprese, invece oggi, lascia perdere. Ma riguardo delle città straniere, cioè delle nazioni straniere, questo non te lo so dire, però viene sempre un amico sardo, che lui è emigrato in Svizzera c'è tanti anni lì, e abita in Svizzera, però l'estate arriva e fa questo con noi, e mi aveva detto che in Svizzera dice non c'è più nessuno, senti qualche camionista, così e basta, però gente che ha il barattino, niente da fare, questo è in Svizzera, me l'aveva detto Gianni, non mi ricordo il nome nativo, vabbè, uno che è in Svizzera, insomma. Vabbè, di lì sono tutti ricchi, saranno tutti tra gli amatori che ce ne sono tanti. Appunto, però, ma anche in Italia diciamo che già sono calati come numero, prima era tutta un'altra musica, prima mi ricordo anche qui, non era solo Sassari, ma c'era tutta la zona limitrofa a Sassari, era invaso di baracchini. Tu sollevavi la testa dappertutto, anche nei paesi, e vedevi antenne e basta. Invece oggi qualcuno, proprio qualcuno. Prima c'era tanta gente, decine e decine, centinaia addirittura di persone che avevano la baracchina in macchina. Già chi ne mette più in macchina il baracchino? Qualcuno così, ma raramente, niente di particolare. E va vabbè, cosa ci vuoi fare? Sì, mi, nella Mantiglia ad esempio ho sentito delle persone che sono passate sotto casa in macchina ed erano stranieri, non so di che lingua stessero parlando, questo non te lo so dire, ed erano in tre, si vede che erano uno dietro l'altro e facevano questo o così, e li sentivo anche perché mi sono arrivati con un segnale fortissimo, sono passati sotto casa e cioè sulla 131, dunque da 131 qua mi arrivano 920, 930, no, no, non si può dire di no, per cui ho capito che ero in transito in questa zona, qui da me. Avanti Gianfra. Sì, ma guarda, io quando scendo giù al porto oppure in altre zone, circondando in altre zone fuori Sassari, vedo tanti camper, tutti dentro hanno la radio, sono tedeschi, francesi, chi non se ne metta, rimangono sempre in contatto con loro. 27, anche perché tanto oramai essendo la normativa a livello europeo possono liberamente circolare da un paese all'altro dell'Europa senza bisogno di autorizzazioni praticamente, dato che l'hanno liberata e l'Italia si è adeguata ovviamente alla normativa europea. Tutto lì. Quindi a guardar bene già ci sono, siamo noi che spesso non li vediamo, ecco. Sì, beh, certamente tanta gente ce l'ha il baracchino e non solo in macchina, ce l'ha anche sul camion, magari chi lavora, ce l'hanno anche a casa, perché io quando accendo il Cibitonco, io vedo che ci sono tutti i punti di riferimento, ci sono sia in Italia, ci sono tante persone che chiacchierano, ma soprattutto all'estero, soprattutto nella zona lì, Brasile, Spagna, e tutti quei posti di Cile, eccetera, eccetera, ma anche l'America, addirittura anche dall'America. Io vedo dalla cartina, perché su Cibitalk c'è la cartina, tu vedi tutti i punti di riferimento, i bollini, e sai che lì stanno parlando, perché la Midland aveva fatto questa applicazione sul telefono, è gratuita, non paghi niente, lo scopo della Midland era quella di vendere soprattutto i microfoni, e ti puoi collegare col microfono anche a 101 km di distanza tranquillamente in linea d'aria, mentre invece senza quel microfono al massimo puoi raggiungere 30 km, puoi raggiungere, per cui ma invece compri il microfono, 120 euro all'incirca costa, e lo colleghi al CB, lo colleghi e parli tranquillamente anche a distanza di 100 km, non so se tu ce l'hai con l'applicazione, se l'hai mai seguita, io in tanto l'accendo sul tablet e vedo che c'è, chi non c'è, capito? Gioca. Sì, ovviamente ovviamente, aspetta che abbasso, che ogni tanto fa una chiamata qua, la conosco, ce l'ho anche se devi fare diciamo altre cose, cioè altre applicazioni, è molto più efficace, ecco, per fare collegamenti in net radio, perché lo uso anch'io, però un sistema del genere però serve per collegare il telefono alla radio, perché ci sono delle apparecchiature particolari che hanno queste doppie funzioni, sia radio sia telefono. Per telefono non intendo il cellulare, intendo un telefono che si collega alla rete, quindi dei sistemi in gergo si chiamano VoIP, voce tramite IP, però sono un livello un pochino particolare. E niente, purtroppo in Italia c'è il fatto che siamo una popolazione micidiale, proprio super litigiosa, guarda le associazioni, cosa succede, si scannano, guarda, guarda i governi, dato che questa è autorità, guarda cosa sta succedendo anche nei governi, cioè una cosa che poi se tu leggi i giornali di fuori rimangono perplessi, dice ma come? State andando bene, siete meglio anche di noi, e voi cosa fate? Vi ha disuppata e fate pure cadere un governo. No. Guarda, c'erano quelli inglesi che sono perplessi, c'è il giornale, se tu poco a poco guardi le recensioni della stampa estera, facciamo di tutto per stoppirlo, veramente anche nel negativo noi siamo sempre all'avanguardia. Lo so, purtroppo gli italiani sono così, niente da fare, ma cosa vuoi che ti dica, come so. No, ma tornando al fatto delle 10 bitocco, praticamente col telefono, io di tanto in tanto quando lo accendo non parlo mai con l'Italia, difficilmente parlo con l'Italia perché non è che mi piacciono molto le conversazioni che fanno lì, anche perché su un canale 30-40 persone, ma quando come fai a parlare lì? No, è possibile. Poi ci sono quelli che se ne impossessano del canale, parlano sempre loro, magari perché c'è qualche donnina un pochino col calore nel basso fondo, nel basso ventre, e allora si incomincia, lo sai, insomma è come le mosche al miele. La gente è malata tante volte, non capisce che non si dovrebbe parlare così. E allora cosa faccio? Vado nei siti stranieri e chiamo soprattutto l'Argentina e mi rispondono subito, solo che anche lì sono sempre penalizzato, perché anche se parlano lo spagnolo più o meno, oppure in Portogallo, ed ecco che una decina di minuti, un quarto d'ora, già ci parlo anche lì, ma raramente, non sempre. Poi per quanto riguarda il governo, lo sappiamo, Renzi è pazzo, l'abbiamo sempre saputo, per cui lui è uno che prima l'ha costruito il governo, poi adesso lo sta distruggendo. Adesso non è il momento certo di far cadere il governo, perché con questo problema della pandemia che c'è, figurati se noi siamo in grado di sopportare anche questo. Voi. No, intanto c'è questo, ha ritirato i suoi parlamentari, però allo stesso tempo non vuole mollare, vuole comandare, ecco qua il discorso. Renzi è un pezzo di eccetera eccetera, e dunque lo sarà, lo è sempre stato e lo sarà sempre. Vai Gianfra. Secondo me la definizione giusta l'hanno trovata gli inglesi, perché di lì lo chiamano Dictator Man, cioè uomo che distrugge, capito? È detto da dei giornali di stampa estera, fosse lui qualche domanda me la farei, ecco. A prescindere da tutti i ragionamenti che lui può fare su qualunque cosa, però c'è il modo di fare determinate azioni, non è che puoi danneggiare un paese solo perché tu sei scemo o perché vuoi più potere, perché si vede dalla persona, dalla sua personalità, dal suo modo di agire eccetera, che è una persona molto molto infida. Non so Dante, dato che lui è fiorentino, dove l'avrebbe collocato nel genoni infernali, ecco. Quindi proprio, ma lui ma anche gli altri, attenzione, è tutta una, lo chiamavano infatti il cerchio magico, anche quelli che c'erano lui al governo, erano tutti figli di papà, tutta gente molto ricca, spesso impelagata anche in situazioni poco chiare eccetera, però gente che veramente parla dell'Italia, degli italiani, senza sapere poi, senza aver mai patito neanche un pochino di quello che stanno facendo gli italiani. Quindi proprio figli di papà, ecco, viziati, che pensano sempre ad avere la meglio su tutti, però secondo me così va molto male. Sono rientrato, mi ha mandato un messaggio Gianni che è dovuto scendere urgentemente giù col cane. Ok, io rientro da dopo. Sì, ok, cazzo, siamo immaginati, infatti avevamo chiamato su e giù e niente, no, stavamo parlando così di PDM, perché noi parlaccio non ne diciamo, però l'abbreviazione già la sai, no? Il PDM che vorrebbero fare i furbi e invece sono proprio dei PDM. E lasciali fare, ne ho già parlato io con Giulio, no? Non ci voglio rientrare in questo discorso, no, io ho il telefono, scusate, ho il telefono, mio fratello, ci siamo trattenuti un po', e niente, e vabbè, comunque, adesso partirà questa nuova cosa, poi vediamo di che morte dobbiamo morire, avanti Matteo. Ok, sì, ma quando ci sono le persone... Per conto mio, sia ben chiaro, questa è la mia opinione, viscida, perché per me quello che ha fatto in questo momento è solo una persona viscida come lui lo poteva fare, perché in tempo di pandemia non deve far cadere il governo. Adesso vediamo, poi naturalmente poi ci sono gli altri che sono bene attaccati alla poltrona, incollati, anzi anche coi bulloni, sono incollati e bullonati, in modo che non c'è pericolo che si scollino proprio, perché così almeno se vai in avaria alla colla ci sono i bulloni che li sostengono ben fissi alle poltrone. Ma dico questo, prima lo fai questo partito, lo metti al governo, fai di tutto per comandare, poi ti separi, te ne vai, ti porti via la metà dei parlamentari e adesso vuoi far cadere anche il governo in un momento così critico per l'Italia, perché l'Italia sta passando un momento molto ma molto brutto con questo fatto dei contagi eccetera. Non a caso dicono che gli italiani saranno tutti vaccinati entro l'autunno, si può immaginare, siamo adesso in autunno, a quando il prossimo autunno ci passa un anno ancora, e dunque dobbiamo sopportare, non va bene così. Per cui lui, intanto a lui mi dovrebbe, a me personalmente, io che le dico, spiegami come hai fatto a comprarti una villa da 1.300.000.000, cioè non da 1.000.000.000, da 1.200.000, spiegami come hai fatto, se avete considerato che ti sei sempre lamentato che non hai soldi. Questo non l'ho capito, evidentemente li ha procurati in qualche maniera, ma saranno affari suoi, io non ci voglio mettere lingua, però avete considerato che loro stanno amministrando la nazione per mantenerla in piedi, soprattutto la povera gente, lui mi dovrebbe spiegare come ha fatto a comprarsi una casa che costa 1.000.000, cioè 1.300.000, solo quello vorrei sapere, vabbè, comunque, meglio per lui, avanti Giafra. Quello te l'ho detto, Babbo è ricco, anche se inquisito non si chiama la moglie, però Babbo è ricco, no? E lui lo è altrettanto, ovviamente, con tutti i suoi amichetti, amichette, eccetera, eccetera. Quindi non gli frega niente di chi sta male, delle altre persone. Però purtroppo, Giulio, ti devo dire una cosa, e questa è come la penso io, ma anche come la pensano molti osservatori stranieri, e forse anche qualcuno della destra, non estrema, ma della destra normale, diciamo, per intenderci, che ancora non abbiamo visto niente, perché se disgraziatamente, questa penso che sia la principale preoccupazione anche del Presidente della Repubblica, dovesse entrare la destra intesa non tanto come Berlusconi, che ultimamente è abbastanza moderato, ma come Salvini e come la Meloni, che sono tipicamente, geneticamente contro europei, dovremmo passare non brutti quarti d'ora per pandemia, ma tutti quarti d'ora proprio, perché ci avremo una corda al collo. L'italiano purtroppo, disgraziatamente per l'Italia, c'è una memoria molto scarsa, si è dimenticata di cosa abbiamo passato e di cosa stiamo passando anche in termini di età pensionabile, con la Fornero e con Monti, che ha dovuto fare dei provvedimenti draconiani. Io dico che se entrano questi signori ne vedremo delle belle, capace che saranno a rischio anche le pensioni, però stiamo a vedere cosa succede. Speriamo che di riuscire in qualche modo a addrizzare la rotta, perché se no quello che sta succedendo sarà ben poca cosa. Comunque preghiamo che non sia così. Ma cosa vuol dire da fare? Saremo a vedere. Avanti Claudio. Si è allontanato perché ogni tanto lo chiamano. Cosa ti volevo dire io? Mamma mia, la vicenda è casa. Ah ecco, mi allontano un attimino anche io perché devo chiudere, perché ho le finestre, no, non sono aperte, però devo chiudere, come si chiama lì? Il portellone tipo nave. Sì, chiudi, Gioca. Ciao, sono qui. Ok, qua. Eccoci qua. No, abbiamo chiuso. Anche l'altro è chiuso, quindi siamo a posto. Ok. Purtroppo così. L'italiano è nato un po' troppo camorrista. Non è possibile. Anche visto, anche i medici adesso si stanno usando le fiale dei vaccini per i propri parenti. Non l'hai sentito la televisione, una vergogna, per carità. Anziché utilizzarla per chi ne ha veramente bisogno, anche i ragazzi di 18 anni stanno facendo i vaccini. Tutto questo perché? Perché ce l'hanno loro e li usano e li fanno a chi le pare le piace. Ma cosa dice, penso a me stesso? Loro pensano così, invece non dovrebbe essere così. C'è un programma che dovrebbe incominciare, prima di tutto un personale medico, poi dai vecchi, non dagli anziani, dai vecchi, quelli che hanno oltre 80 anni, e poi dalle case di riposo, questi che l'ordine che hanno sempre detto che avrebbero vaccinato. Invece stiamo sentendo che i nostri signori dottori stanno vaccinando i propri parenti, e questo ti sembra giusto, Gianfranco? Oh, yeah. Lo stesso Papa aveva detto, dice, prima bisogna vaccinare i poveri che hanno ben bisogno, però lui si è fatto vaccinare subito, lui non è povero, ecco, anche quello c'è da dire qualcosa. Non ho capito l'ultima, chi è che si è fatto vaccinare, il discorso del povero. Però Giulio, ti voglio dire una cosa, adesso non facciamo anche l'italiano in quel senso, perché per noi va sempre tutto male. Non puoi dire per un gruppo di persone, perché ricordati una cosa, non c'è categoria umana sul pianeta che non abbia la distinzione tra buono e cattivo, quindi per colpa di quattro pecore nere non è che puoi far fuori tutto il gregge. Questo anche per rispetto a tutti quei medici, sono tantissimi, veramente tantissimi, che hanno perduto la vita nell'adempimento del proprio dovere. Sarebbe irriverente. Quelli sono 4-5, guardano, sono nel palmo di una mano probabilmente, 4-5 miserabili che hanno fatto quella cosa, ovviamente i giornali li portano in trionfo con le notizie che vengono sempre amplificate. Questo non è giusto in confronti di tutte quelle persone che sono oneste. E quante volte hanno detto ripeto, i dipendenti pubblici sono tutti pannelloni, eccetera, e magari c'è gente che lavora dalla mattina alla sera per un stipendio da far ridere. E così hanno parlato male dei camionisti, sempre correndo e provocando incidenti, magari poi sono quei 3 o 4 che l'hanno fatto. Cioè, capito, c'è questa tendenza alla condanna, totale immediatamente. Vanno condannato, va condannato chi sbaglia, ma non tutta la categoria. È come dire, io so che quelli falegname, ecco, tutti i falegnami distruggono la natura, distruggono gli alberi, sono delinquenti. Ma che ne sappiamo noi cosa fanno i falegnami? Io non sono falegname, non posso parlare male di tutti i falegnami. Ci sarà qualche falegname, indubbiamente, su 60 milioni di abitanti che fa qualcosa di cattivo, però non sono tutti i falegnami. Capito, Giulio? Questo è l'errore che si commette, un errore dal punto di vista etico, ma anche morale, se vogliamo. Sì, però devi considerare che gli italiani sono come le pecore, no? Che seguono, come fanno le pecore? Una fa strada e tutti gli altri seguono lo stesso percorso. E quando si incomincia a sentire un certo tipo di atteggiamento, diventa una moda, tutti lo seguono, perché è così. Ah, tu quando l'ho fatto io no, adesso lo faccio anch'io. Ecco, questa è la mentalità della maggior parte della gente italiana, per cui no, non c'è da meravigliarsi. Comunque, no, stavo dicendo, quello che non avevi capito, è stato vaccinato anche il Papa, però lui inizialmente aveva detto che lui si sarebbe vaccinato dopo, prima tutti i vecchi poveri, ecco, lui ha detto questa frase, tutti i vecchi poveri, non mi sembra che lui sia povero, tutto lì, mi sembra che è diventato Claudio, avanti qua. No, proprio non riprende. No, anche su questo ti vorrei contraddire, guarda, io sto molto attento quando parla il Papa, tieni presente che lui è un capo di Stato, attualmente, di uno Stato indipendente, quindi sotto quel punto di vista deve essere anche, se vogliamo, è anche data l'età, vaccinato per forza. E comunque il Vaticano, se non ti fermavi alla prima notizia così, devi sapere che il Vaticano ha comprato i vaccini come è stato Vaticano, e quindi per chi abita, e quindi il Papa anche, nello Stato Vaticano. Il fatto che l'abbiano vaccinato è sicuramente una questione di opportunità, e comunque anche lui ha aspettato il suo turno. Come tutti gli altri, probabilmente ne avranno vaccinato tanti, dato che sono abbastanza pochi anche in quello Stato, ripeto Stato. Noi non possiamo andare a contestare quello che succede in un altro Stato, seppur questo è il capo di tutta la religione, diciamo, cristiana. Capito? Anche lì pecchiamo sempre di presunzione, senza poi andare a vedere i fatti come sono. Lo stesso Mattarella non so neanche se sia vaccinato, ma penso che quello sia talmente incazzato per quello che sta succedendo che ha detto, se non mi fa pure il virus mi scende qualche coccolone, perché me ne stanno facendo tutti i colori. Oh raga, perdonate perché c'è gente, sono qua comunque, ogni tanto vengo a salutarvi. Vai, oh Giulio. Ok. Sì. Sì, ma infatti è questo, che la gente approfitta di certe situazioni. Ecco qual è il discorso. Io non dico che anche lui, certo che si doveva vaccinare, anzi, avendo l'età che ha, è anche giusto che si sia vaccinato. Però lui, la frase che ha detto, è quello che io voglio sottolineare. Lui aveva detto chiaramente che lui si sarebbe vaccinato, sì, ma dopo, prima tutti i poveri, tutti i vecchi poveri. Questa è una frase bella chiara. Invece lui, io appunto voglio sottolineare che lui non è povero, è vecchio anche lui, certo, 84 anni mi sembra, una cosa del genere, è giusto che si sia anche vaccinato. Poi io, tu dici sì, è vero, è uno stato a sé, però devo dire che è uno stato a sé, è mantenuto da noi italiani. perché i soldi li diamo noi al Vaticano, per cui lasciamo perdere, di contraddizioni ce ne sarebbero tanti. Ripeto, non ha niente a che vedere col fatto della Chiesa, però io che l'amministro la Chiesa non è certamente, non si può dire che non abbia delle macchie e delle pene da pagare, questo è scontato. Naturalmente io sto generalizzando, poi chiaro ci sono anche quei religiosi che sono onesti, che sono persone molto molto affidabili, ma la maggior parte lasciamo perdere Gianfra, per carità. E qua torniamo sempre al discorso di prima, vedi? Tu stai dando un cattivo esempio proprio di come l'italiano, mi dispiace dirlo, ma condanni tutta una categoria senza conoscere tutta la categoria. Io tutti i preti d'Italia o del mondo non li conosco, però voglio pensare che su 100.000 che ce ne fossero, non posso dire che 100.000 cattivi, e allora dobbiamo tornare sempre al Vangelo che dice testualmente, attenzione, ricordatevi che io sono venuto non per quelli buoni ma per quei pochi cattivi che ci sono. Ricordati che la pecora nera, l'hanno chiamata nera, perché nel bianco, che il greggio di nome è tutto bianco, si vede subito, capito? Però sono due, e quindi è lo stesso ragionamento che a Gesù Cristo l'hanno mandato in croce. Quelli che sapevano far urlare di più, mica tutta la folla che era favorevole a salvarlo. Però siccome quelli gridavano di più, Barabba, Barabba, Barabba, e allora con la voce più alta e con molti che avevano paura di essere uccisi hanno crocifisso Gesù. Questa è la verità. Quindi non si può condannare tutta una categoria di persone, siano essi preti, siano essi falegnami, siano essi meccanici, perché la maggior parte della gente è buona. E se noi non ci mettiamo in testa questo concetto, non andremo da nessuna parte, sotto tutti i punti di vista. Ricordati che la maggior parte delle costituzioni dei paesi democratici dice che nessuno può essere colpevole se prima non è stato giudicato e con le prove in mano. Io posso dire che uno è una cattiva persona quando quella cattiva persona, ci sono delle prove per dire una cattiva persona. E dobbiamo imparare questa lezione, perché molta gente, soprattutto purtroppo nel nostro paese, è andata in galera, è stata rovinata, perché qualcuno ha detto quello ha fatto quell'altro. Seguendo quel ragionamento torniamo ai tempi dell'Inquisizione, in cui bastava solo un'accusa generica per mandarti al rogo. E ci sono morte tantissime persone, migliaia, anzi milioni di persone. Quindi non è giusto, sotto tutti i punti di vista, a prescindere poi, per quello che riguarda la religione, a prescindere dalle credenze, che non ci creda, che non ci creda, insomma, è così. Ma io non ho detto che sono tutti disonesti, no, assolutamente, io ho detto che ci sono tantissimi che sono delle bravissime persone, che sono dei bravissimi religiosi, però la storia ci insegna, la storia di tantissimi anni ci insegna che loro hanno diversi peccati da pagare, lo sappiamo benissimo, incominciando dalla pedofilia, incominciando dallo sfruttamento, perché già lo sappiamo che sfruttano i poveri, la povera gente, e poi non me lo venire a dire a me, perché io sono nato in una famiglia di religiosi, sono nato e so benissimo come trattavano i preti, come trattavano i preti, non la Chiesa, non c'entra niente la Chiesa non si deve toccare, Gesù Cristo non si deve toccare, quello è intoccabile, però non dimentichiamoci che chi ha crocifisso Gesù Cristo è la storia che lo dice, che sono proprio i preti, saranno i preti cattivi, d'accordo, ma sempre di preti si tratta. Io non ho detto che sono tutti così, no, ho detto che ci sono tanti preti che sono disonesti, e poi invece ce ne sono tantissimi e ancora di più unisti. Questo sì, io ho detto questo. Sotto questa formula siamo perfettamente d'accordo. Sotto l'altra formula, in cui ha detto tutti, anzi la maggioranza, non potevamo essere d'accordo, ripeto. Guarda quante ne ha subito quel Papa, non quel Papa, scusa, quel vescovo australiano, accusato di pedofilia, da, tra l'altro da un nostro conterraneo, e poi si è scoperto che dopo qualche anno di processi, di calunnie, di sospensioni, eccetera, era stato tutto montato ad hoc perché si stava occupando delle magagne di un altro cardinale che si portava i soldi a casa, li dava alla famiglia, li dava ai fratelli, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi adesso, dopo essere andato alla gogna, è stato per sua fortuna, diciamo, riconosciuto innocente ed era accusato di reati pesantissimi, proprio di reati di pedofilia, perché quando si vuole colpire proprio quella categoria, la cosa che viene subito alla mente è di accusarli di pedofilia. Però le prove, i fatti non c'erano, capito? Molta roba era montata d'arte proprio per toglierlo di mezzo, perché lui stava indagando su quello che aveva fatto un certo monsignore delle nostre parti, capito Giulio? Quindi ripeto, i colpevoli sono quelli che vengono condannati da un tribunale giusto, ovviamente, perché poi ci sono anche quei tribunali che ti condannano a prescindere. E siccome io sono anche un appassionato di storia, a me piace moltissimo la storia e mi documento moltissimo, è vero che c'era sicuramente ai tempi dell'Inquisizione, guarda, che brillava soprattutto in Spagna, ci sono state vittime di eccellenza, anche nobili, e anche gli stessi preti sono stati vittime di altri preti in moltissimi casi, però non è che perché ci fosse un inquisitore pazzo e maniaco che tutti quanti anche all'epoca fossero cattivi, anzi c'erano molti frati, molti preti che, di cui non conoscevamo mai il nome, che si sono sacrificati fino all'ultimo. Quindi è così, è l'essere umano, il problema è l'essere umano che spesso nella tentazione cade in queste trappole comportandosi male. Però qua parliamo di cose un po' più complicate. Beh, certo, adesso intanto per dirtene una, io mi ricordo benissimo come se fosse oggi, io allora ero un ragazzo, e c'era mio padre che ha fatto l'ubriere per almeno 15 anni. Ha preso il candeliere, ha preso la bandiera piccola, ha preso la bandiera grande, si intende non preso che ha portato il candeliere a spalle, no, si intende che lui era l'ubriere del candeliere, l'ubriere della bandiera piccola, l'ubriere della bandiera grande, sempre del gremio dei falegnami, perché anche mio padre è stato falegname. E io mi ricordo benissimo, una volta entra il gremio con mio padre che aveva la bandiera grande, allora praticamente ovriere maggiore del gruppo dei falegnami, entra in chiesa e per regola la bandiera, quando entra, qualsiasi bandiera che entra in chiesa, si avvicina all'altare maggiore e fa l'inchino, la bandiera fa l'inchino. Poi si gira da una parte e fa l'inchino, dall'altra parte e fa ancora l'inchino, a destra e a sinistra, al centro, a destra e a sinistra. Invece quando è entrata la bandiera che stava portando mio padre, c'era questo frate a Santa Maria, perché il discorso, sto parlando della chiesa di Santa Maria, io sto parlando tantissimi anni fa, metteva lì dietro, Ma te rendi conto che cosa sta dicendo quando tu dici mettila di dietro? Voleva dire la bandiera mettila di dietro in un angolo. Intanto stai offendendo San Giuseppe, perché in quel momento stai entrando in chiesa San Giuseppe, perché quella bandiera rappresenta San Giuseppe, cioè il santo dei falegnami. E prima di dire certe cose tu ti devi sciacquare la bocca, perché la regola è che la bandiera deve essere portata all'altare maggiore, fa l'inchino poi a destra e poi a sinistra, sempre facendo l'inchino. Per dirti, no, questo è il modo di trattare anche loro i santi, primo, per non pagare poi delle offerte. Si sono lamentati allora in quel periodo, io parlo